In occasione di Arte Fiera arriva al cinema Lumière la programmazione di Art City Cinema e io sono qui per parlarne con Paolo Pellicano, responsabile programmazione cinema Lumière. Ciao Paolo, benvenuto ai microfoni. Ciao Rachele, ciao, grazie mille dell'invito. Questo percorso appunto Art City Cinema indaga le intersezioni che ci sono tra cinema ed arte attraverso tanti ritratti d'artista, per cui ti volevo chiedere quali saranno i film in proiezione e chi saranno gli artisti protagonisti di questa indagine. Questi primi 5 giorni di febbraio sono, come hai giustamente detto, dedicati ad Arte Fiera, quindi la programmazione del Cinema Lumière entra nel cartellone cittadino di Art City e segue d'altronde i 5 giorni che si hanno chiuso il mese di gennaio, di cui so che hai già parlato qualche giorno fa. Se in gennaio ci siamo dedicati a una rassegna cinematografica che approfondiva il legame tra cinema e fotografia, e su questi primi 5 giorni di febbraio avremo un programma più eterogeneo sull'arte e in tutte le sue declinazioni. Allora inizieremo il primo mercoledì 1 febbraio con un film dedicato a Patrick Proctor, il pittore inglese al quale a Palazzo Bentivoglio proprio in questi giorni è dedicata una bellissima mostra dei suoi acquerelli. Questa stessa proiezione, così come quella di venerdì 3 con A Bigger Splash di Jack Kazan, è organizzata in collaborazione con Palazzo Bentivoglio e vedrà l'introduzione di Ian Massey, lo storico dell'arte celeberrimo inglese, e Tommaso Pasquale, curatore della mostra Patrick Proctor, The View from a Window. Questi due appuntamenti, gli unici due all'interno di questi 5 giorni al Cinema Lumière, sono a ingresso gratuito, per cui li segnalo per primi. E tra i ritratti d'autore di cui parlavi prima inserirei sicuramente un appuntamento sempre di mercoledì 1 febbraio alle 20 con Fragments of Paradise, il bellissimo documentario dedicato a Jonas Mekas, presentato allo scorso Festival di Venezia, e che sarà al Cinema Lumière introdotto da Sebastian Mekas, il figlio di Jonas. È veramente un documentario entusiasmante sulla vita e sull'arte di questo eclettico artista del Novecento, che tra l'altro proprio lo scorso mese di dicembre avrebbe festeggiato i suoi 100 anni, e quindi proprio in questo periodo ancora si festeggia il centenario dalla sua nascita. È un documentario che sicuramente consiglio sia a chi già conosce Jonas Mekas sia a chi non abbia mai sentito parlare di lui, perché è veramente entusiasmante. Continuiamo sempre la stessa giornata, anzi chiudiamo il primo con un documentario su Marina Abramovic e Ulay, mi viene da dire un altro documentario, perché ne abbiamo già visti più di qualcuno, ma questo aggiunge un tassello alla storia di questi due importanti artisti contemporanei. È molto interessante perché nel ripercorrere la loro vita artistica insieme mette in scena anche quel che successe alla Gamma di Bologna nella famosissima performance. Allora, sul 2 continuiamo con un bellissimo documentario dedicato alla fotografia di Giampaolo Barbieri, quindi torniamo un attimo sul discorso fotografia già portato avanti nel mese di gennaio, e approfondiamo la street art, così come abbiamo fatto già l'anno scorso con un collettivo romano, quest'anno restando sempre su Roma, ma approfondendo l'arte di Laika, street artist romana, di cui si sa pochissimo perché lei gira sempre mascherata, rilascia pochissime dichiarazioni, ma avremo la fortuna e il piacere di averla ospite in sala alle 20 di giovedì 2, insieme a Antonio Valerio Spera, che è il regista del documentario. Insomma, veramente una programmazione ricchissima che, come dicevi tu, andrà dal 1 febbraio al 5, con anche vari spettacoli nello stesso giorno. Ti chiedo, Paolo, una domanda un pochino più tecnica, diciamo così, pratica, che però è sempre utile per i nostri ascoltatori. Quanto costa e soprattutto c'è una correlazione anche con Arte Fiera, Art City? Assolutamente sì. Allora, i biglietti sono, le consideriamo tariffe proiezioni di Cineclub, per cui i biglietti costano 6 euro per il biglietto intero, ma a tutti i possessori di biglietto Arte Fiera riserviamo un biglietto ridotto a 4 euro e mezzo, così come d'altronde riserviamo sempre agli amici della Cineteca, e restano comunque sia valide anche le riduzioni, le classiche riduzioni della nostra sala, valide per gli studenti universitari. Perfetto Paolo, io ti ringrazio per averci raccontato un po' questa rassegna, appunto, Art City Cinema. Ricordiamo ancora una volta, dall'1 al 5 febbraio ovviamente alla Cineteca, e insomma vogliamo ricordare anche magari così in chiusura i contatti tramite cui guardare tutta la programmazione. Certamente potete trovare tutte le informazioni, anche perché avevo iniziato a parlare della programmazione, mi sono fermato soltanto a giovedì 2, ma ci sono altri 3 giorni con tantissime altre proposte interessanti. Potete approfondire il resto della nostra programmazione al sito programmazione.cinetecadibologna.it, dove troverete tutte le sinossi, tutti gli approfondimenti sui singoli titoli, e anche la possibilità ovviamente di acquistare i biglietti in prevendita.